Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome, im cabaret, au cabaret, to cabaret. Inizia anche oggi, eccezionalmente dal vivo, la puntata di Cabaret. Vi dico subito che sarà dedicata a Nanni Svamp, come già altre in precedenza, perché ritengo che sia uno dei pochi, se non il solo autore di cabaret italiano, che ancora operi sul mercato. Di Nanni Svamp vi ho fatto ascoltare a suo tempo il disco ultimo uscito, Riflusso Riflesso, e probabilmente una canzone ci scapperà anche oggi. Vi voglio far ascoltare però, per iniziare, alcuni brani da Nanni Svamp in italiano, che è composto di due LP, il primo dei quali ve l'ho già fatto ascoltare in occasione di un'altra monografica, e il secondo ve lo faccio ascoltare oggi. E voglio iniziare con Marcia Nuziale. Matrimoni d'amore, matrimoni d'interesse, ne ho visti d'ogni tipo, con o senza messe, gente di basso rango e grandi signori, sedicenti coiffeur e pretesi dottori. Ma anche se vivessi fino alla fine del tempo, io manterrò per sempre il ricordo contento delle povere nozze del papà e della mamma. Ricordo, era di luglio, il giorno di Sant'Anna, fu sopra un carro da buoi, non lo dico fra i denti, tirato dagli amici, spinto dai parenti, che i vecchi innamorati fecero giuramento, dopo sì lungo amore, tanto fidanzamento, corteo nuziale, forse un poco diverso, la folla ci guardava distorto e di traverso, eravamo osservati da quella gente vile che mai aveva visto nozze in questo stile. Il vento che soffiava alzò a papà il berretto, il velo della mamma, le vesti al chierichetto. Poi cadde la pioggia bagnando tutto il posto, come per impedire le nozze ad ogni costo. Mai dimenticherò la sposa che piangeva, che il suo bouquet di fiori al petto si stringeva, e Dio per consolarla con quanta forza avevo suonavo sull'armonica tutto quello che sapevo. Gli amici del corteo, pregando tutti i santi, gridavano per Giove le nozze vanno avanti. Per mio padre e mia madre gridavan senza posa, le nozze vanno avanti, evviva la sposa. l'avrete riconosciuto, era stata fatta anche da De André, ma l'originale è di Brassens. E la prossima si chiama Povero Cristo. Povero Cristo si dice di uno che non arriverà. Povero Cristo si dice di uno che non sfonderà. Povero Cristo si dice di uno che non ce la fa. Povero Gesù, tu non avevi detto fondatemi un partito che venda la paura, che sfrutti le vecchiette, che inventi la censura. Povero Cristo, povero Gesù, tu non avevi detto, ascolta, tu sei Pietro e come mio discepolo tu fonderai la Banca Cattolica del Veneto. Povero Cristo, povero Gesù, perché non sei tornato nel Biafra o nel Vietnam? Oppure ancora prima, sotto l'Inquisizione, per Hitler o Hiroshima. Povero Cristo si dice di uno che non ce la fa. Povero Cristo si dice di uno che non arriverà. Povero Cristo si dice di uno che nasce qua o là. Senza riscaldamento, col freddo che fa. Senza riscaldamento, col freddo che fa. Molto bella questa Povero Cristo di Nanni Svamp, che alludeva per gli appassionati di quiz ad un partito. Il quiz è chissà che partito è. Ciò detto, passiamo invece a Riflusso Riflesso, rimaniamo sempre in ambito politico e vi faccio ascoltare C'è chi c'ha l'hobby, appunto dall'ultimo LP di Nanni Svamp. Molte volte mi dico che faccio, prendo il gatto, lo picchio e lo schiaccio, non parliamo dei giorni di festa, quasi sempre io c'ho mal di testa. Scusa, sai, puoi trovarti anche un hobby. Già, mi metto a raddrizzare i gobbi. Ma ti pare un discorso normale? Con le cose che c'ho da pensare. C'è chi c'ha l'hobby di andare allo stadio, chi sul più bello va dentro l'armadio. C'è chi vorrebbe rientrare nel peso e va a finir sempre lungo e disteso. C'è chi c'ha l'hobby di andare sul posto, chi vuole stare a Milano in agosto. C'è chi va in India e ritorna scoppiato, col fai da te c'è chi s'è mutilato. Thank you. se la gente si vuol divertire, cosa fingi di stare a soffrire? Nessuno interessa il messaggio. Cosa vuoi? Siamo qui di passaggio. Se ti va, puoi andare in Oriente. Tanto lì sai che non servi a niente. Se la moda è il ritorno al passato, cosa rompi? Gioca col privato. C'è chi c'ha l'hobby delle navi in bottiglia, chi fa le marce con la famiglia, c'è chi sta in casa a far marmellate, chi fa la calza e chi fa le regate, c'è chi c'ha l'hobby di gonfiarsi il seno, il tempo libero lo passa in treno, chi tira bombe, chi aspetta in galera, c'è chi si buca per passar la sera. Ma se per voi non ci sono problemi e in discoteca vi tirano scemi, posso dormire tranquillo anzi russo, c'ho anche al mio hobby l'hobby del riflusso. Significativa direi questa ultima canzone di Nanni Svampa. Torniamo invece al passato e sentiamocene una un tantino più mossa che si chiama appunto Stamattina. Stamattina è impazzito il Padre Eterno ed il vecchio paradiso sembra un inferno. Imbarazzo fra i beati che confondono i peccati, Sant'Antonio e Satanasso vanno in giro sotto braccio. Stamattina è impazzito il Padre Eterno, sembra proprio che non voglia nessuna guerra. Ed i vecchi generali sembran tanti funerali, nominati fondatori della Lega disertori. Stamattina è impazzito il Padre Eterno e i ministri benedetti con il governo. Hanno detto a suore e frati, siete tutti liberati, non dovete più votare, tantomeno predicare. Stamattina è impazzito il Padre Eterno, ma i fedeli l'hanno preso ancor sul serio. Le bigotte tutte in fila hanno chiesto in sacrestia se la pillola famosa fa venire l'allergia. Fa venire l'allergia. Fa venire l'allergia. Fa venire l'allergia. Fa venire l'allergia. Fa venire l'allergia. Rimaniamo a questo LP e ascoltiamoci anche la successiva che è La preghiera. Per la madre che veglia il figlio moribondo, mentre gli altri bambini giocano al girotondo, per la rondine in volo abbattuta per niente, per quella l'ala spezzata, così stupidamente, per la sete e la fame ed il delirio ardente, io dico Ave Maria. Per i bimbi percossi e per l'ubriacone, per l'asino che prende legnate sul groppone, e per il grido dell'innocenza umiliata, per la fanciulla in fiore venduta e denudata, e i figli la cui madre è stata insultata, io dico Ave Maria. Per la vecchia stroncata da un troppo forte peso, e per il disgraziato che alla vita si è arreso, e non ha più la forza di appoggiarsi a un amore, come sopra Simone la croce del Signore, per il bue che stramazza sotto l'aratro e muore, io dico Ave Maria. Per i quattro orizzonti che han crocifisso il mondo, per quelli cui la carne dà un tormento profondo, per quelli senza piedi, per quelli senza mani, per gli ammalati che non hanno più un domani, per gli onesti maltrattati come dei ciarlatani, io dico Ave Maria. Per la madre che vede rifiorire il suo figliolo, per la piccola rondine che inizia il primo volo, per i campi riarsi che la pioggia disseta, per l'amore riavuto, per l'odio che si quieta, e il mendicante che ritrova la moneta, io dico Ave Maria. Io dico Ave Maria. Io dico Ave Maria. Io dico Ave Maria. Io dico Ave Maria. Sì, lo so, non è indubbiamente molto allegra, ma i francesi Médaille Le Ferré, da cui è tratta questa, appunto, la preghiera, non passano certo per gente allegra, ma mi rendo del resto conto che, essendo questa trasmissione replicata il sabato, come dico sempre, bisogna anche alternare qualche cosa di un po' più allegro. Allora, se riuscite a divertirvi con questa, io ve la mando, si chiama Sud Amer Italia. Siamo tornati tutti quanti nel privato, nel quotidiano ognuno sfoga le nevrosi, va bene tutto anche se non funziona niente, ma c'è una smorfia sulla faccia della gente, quando finisce la paura e lo sgomento, a chi si incazza io gli faccio un monumento. Per risparmiare stiamo presso il caminetto, non c'è lavoro fortunato chi c'ha un tetto, ma mentre tu sei lì che guardi Stanlio e Ollio, i petrolieri hanno imboscato il tuo gasolio. A me sta bene anche il cacio con le pere, ma non venite a prenderci per il sedere. Quando li mettono davanti ai tribunali, tanti ministri non ricordano più niente, quindi mi pare non ci sia niente di strano se non ricordano le promesse elettorali. Ma stai tranquillo, non si sono dimenticati di dove i soldi li hanno già depositati. Aguanti da Catanzaro all'America Latina, appena fatto il governo una mattina, hanno beccato, detto fatto i latitanti. Sarà perché io c'ho la testa come un mulo, ma c'è qualcuno che ci prende per il culo. Tanti ragazzi scoppiati per le strade, così diversi da quelli che hanno lottato. Ma come fai anche volendo a ribellarti, se con la dose la siringa t'han fregato? Così le vittime riempiono le galere, mentre chi spaccia fa il gioco del potere. La scuola aperta coi decreti delegati, nuova didattica e lezioni candidati, le notti in bianco a discutere programmi, con gli insegnanti sindacati e di diagrammi, e finalmente amministriamo con successo, quattro matite e la carta per il cesso. Oggigiorno essere anticlericale è contro la moderna concezione di tolleranza e unione nazionale, ma andiamo avanti un po' stu carrozzone, ma i capitali ce li hanno ancora loro, e come mai nessuno spara in concistoro? Prima ci han detto che Dio può essere mamma, adesso fan telefonate alla Madonna. Io voglio fare un telegramma al Padre Eterno per farmi dire se Sindona va all'inferno. Sarà perché io sono come San Tommaso, ma c'è qualcuno che ci prende per il naso. Sarà perché io sono un tipo malfidente, ma c'è qualcuno che non vuol risolver niente. Sarà perché io c'ho la testa come un mulo, ma c'è qualcuno che ci prende per il culo. Parole sante in clima preelettorale. Chiudiamo la trasmissione di oggi con una invece dal Nanni Svamp in italiano di cui vi dicevo prima, e si chiama Il Provvisorio. Quando sono nato non c'ero, durante la guerra ero via. Forse però è colpa mia, perché se mi cercan di là sono qua, ogni compleanno in famiglia. Io c'avevo sempre un impegno, una notte ho dormito a Seregno, pur di non essere lì. Quando han conquistato la luna, ero sotto l'anestesia, inoltre si è rotta una spia e m'han tenuto due giorni di più, così non ho visto un bel niente. E anche quando l'han replicato, forse per il campionato vedrò qualche cosa di più. Quando è morto il nonno ero sotto, sotto a militare si intende. Poi quando ho levato le tende, era finito l'economico boom, così non ho trovato un impiego. Non l'ho nemmeno cercato, però poi mi son fidanzato per corrispondenza con te. Un giorno che ero sopra pensiero, quando son venuto a trovarti, eri già pronta a sposarti, e m'hai fatto dire il fatidico sì, ma quando è nato il pupo ero al mare. Quando ho messo i denti ero in viaggio, lo vedo però di passaggio, quando passo a trovare anche te. Bene, rapidissima questa, appunto, il provvisorio, e mi pare giusto concludere la trasmissione con questa sorta di inno molto rapido che Nanni Svamp appunto rivolge a chi lo ascolta. Questa era una trasmissione di Cabaret, casomai qualcuno ancora non lo sapesse, che va in onda il mercoledì e il sabato dai microfoni di Radio Alto Ferrarese. Con questo io vi saluto, vi dico a risentirci e senz'altro chiudiamo un po' prima per recuperare il tempo, visto che c'è gente che scalpita alle mie spalle. Dicevo, chiudiamo prima e senz'altro vi mando la sigla. What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.